La sorte deciderà il vostro destino. Un dado a 20 facce sarà il giudice della vostra forza, stabilendo se riuscirete a superare la prova o meno. Per tirarlo, vi basterà toccare lo schermo. Ma attenzione! Per superare la sfida, ognuno di voi dovrà sconfiggere i briganti nel suo quadrante. Ora ditemi, chi vuole iniziare? Posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.